Elia il Tisbita da Tisbe in Galaad disse ad Acab: «Com'è vero che vive il Signore Dio di Israele ch'io servo? In questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia se non quando lo comanderò io». Poi gli fu rivolta la parola del Signore: «Parti di qui, volgiti verso l'oriente e nasconditi presso il torrente Cherit che si trova di fronte al Giordano. Berrai dal torrente e ho comandato ai corvi che ivi ti procurino il nutrimento». Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi presso il torrente Cherit che si trova di fronte al Giordano. I corvi gli portavano pane al mattino e carne alla sera. Egli beveva al torrente. Dopo un po' di tempo il torrente si seccò poiché non c'era stata pioggia nel paese. Allora gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Levati e vattene a Zarepta, che appartiene a Sidone, e abita là, poiché ho ordinato là a una vedova di provvederti il nutrimento». Egli si levò e andò a Zarepta. Giunto alla porta della città, ecco lì una vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: «Prendimi un po' di acqua con la brocca perché possa bere». Mentre andava a prenderla, le gridò: «Portami anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Com'è vero che vive il Signore, tuo Dio, non ho del pane cotto, ma solo una manciata di farina in una giara e un po' d'olio in una brocca. Ecco, sto raccogliendo due pezzi di legna, poi andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e dopo moriremo». Elia le disse: «Non temere, va pure e fa come hai detto. Prima però fammi con essa un piccolo pane e portamelo, poi ne farai per te e tuo figlio. Così infatti dice il Signore, Dio di Israele: la giara della farina non giungerà mai alla fine e la brocca dell'olio non rimarrà mai vuota sino al giorno in cui il Signore non invierà la pioggia sulla faccia della terra». Ella andò e fece come le disse Elia, e mangiarono lei, lui e il figlio di lei per parecchio tempo. La giara della farina non giunse mai alla fine, la brocca dell'olio non rimase mai vuota, secondo la parola che il Signore aveva detto per bocca di Elia. Ora, dopo questi avvenimenti, s'ammalò il figlio di quella donna che era padrona di casa. La sua malattia fu così violenta che gli spirò. Allora ella disse ad Elia: «Che cosa v'è tra me e te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me a ricordarmi il mio peccato e farmi morire il figlio?» Egli le rispose: «Dammi tuo figlio». Lo prese dal suo seno, lo portò nella stanza superiore dove egli abitava e lo coricò sul suo letto. Poi invocò il Signore: «Signore, mio Dio, vuoi proprio fare del male anche alla vedova che mi ospita, facendole morire il figlio?» Quindi si distese tre volte sul fanciullo e invocò il Signore: «Signore, mio Dio, l'anima di questo fanciullo, ritorni in lui». Il Signore esaudì la voce di Elia. L'anima del fanciullo ritornò in lui ed egli ridivenne vivo. Allora Elia prese il fanciullo, lo fece discendere dalla stanza superiore nella casa e lo consegnò a sua madre. Elia le disse: «Guarda, tuo figlio è vivo». La donna rispose ad Elia: «Ora so proprio che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore sulla bocca tua è verità».